mia terra. Fumo passivo, 2010, mal di testa. La mia terra convive coi tumori, perseguitata dai peggiori e tutti vanno fuori. E per studiare ciò che manca sono i soldi e tutti state attenti a fare i giusti conti. E stiamo ancora girando in queste vie, dove non si vedono che banche e farmacie. Ci nascondiamo dietro muri di silenzio, un silenzio fatto solo di balle e ipocrisie. E il tempo è già cambiato ed è partita la mia nave, il comandante che ha giurato che l'amava. E tutti questi stronzi in giro con la bava, cercando di rubare le pietre in una cava. E tu non ci pensare, cerca di andare via. Qui ogni uomo ha la sua di monarchia, ma io penso e ripenso, ogni lancio di monete mi esce testa. Non per questo, questa è terra mia. Il mio cuore è qui e io non andrò. Io lo so che sei figlia di una guerra, figlia di una guerra. Ma tu sei la mia terra. Il mio cuore è qui e io non andrò. Io lo so che sei figlia di una guerra, figlia di una guerra. Ma tu sei la mia terra. Ed ogni cosa qui mi toglie il respiro, tra la pineta e il deserto, ma qui è il mio cammino. Questa è la mia terra, è per questo che la miro. Occhi in alto, braccia aperte, solo un giro. Ne vado fiero per ogni morto qui nel mio cuore. Aperto un cielo, e il tuo cielo è sempre più grigio. Tranquilla, questo cielo rimane sempre nero. E non può farci un cazzo di commissario. Siamo noi che dovremmo sbarrare le porte oggi in intero. No, non è vero che la terra non si cambia. No, non è vero che il deserto è solo sabbia. E vedo un posto morto e sale la mia rabbia. Per ogni cosa giusta la offuscano con nebbia. Negozi chiusi tutta la settimana e magazzini aperti solo per produrre grana. E la finanza che sta a guardare la mia terra qui che si allontana, tra una chiesa e una fontana. Futuro di un bambino seduto su un'altalena, guardando mille stelle ma senza luna piena. Si apre il telo sulla scena, questa è la mia terra. Il mio cuore è qui e io non andrò. Io lo so che sei figlia di una guerra, figlia di una guerra. Ma tu sei la mia terra. Il mio cuore è qui. Io lo so che sei figlia di una guerra, figlia di una guerra, ma tu sei la mia terra. Le pallottole che passano come uno sciame di vespe sui tuoi cieli martoriati, sopra le loro mozzate teste. Un ciuffo d'erba secca circondata da bocche di bestie, ostaggio di gente con la testa bassa e le alte creste. Scrivo sta roba con rabbia che viene dal cuore, terra che sotto i nostri occhi e tra le nostre braccia muore. Vittima del fatto che è abbandonata dalla gente, che per salvarsi in qualche modo si è allontanata dalla corrente. Di un fiume che porta in un mondo conforme, non volendo vivere l'esperienza di una notte insonne. Una notte che equivale ad una vita sofferente, che è stata vissuta completamente, attentamente. E mentre la gente si salva, noi ragazzi siamo fuori con i cartelli in mano e in bocca tanti cori. E non sappiamo se tutto questo porterà a qualcosa, visto che stanno cadendo veloci i petali della rosa. E gridiamo forte in faccia a quelli che peggiorano, e stringiamo forte tra le braccia quelli che consolano e portano nelle case un po' di avanzo, di speranza, diventata da vedersi da anni di carenza. La mia terra ne ha visto gente passare su di sé, ma non ha visto mai nessuno che la stringesse a sé. Non ha sentito mai nessuno chiedersi perché nelle nostre teste rimbombe. Scriviamo una poesia per te. Il mio cuore è qui e io non andrò. Io lo so che sei figlia di una guerra, figlia di una guerra. Ma tu sei la mia terra. Il mio cuore è qui e io non andrò. Io lo so che sei figlia di una guerra, figlia di una guerra. Ma tu sei la mia terra. Il mio cuore è qui e io non andrò. Io lo so che sei figlia di una guerra, figlia di una guerra. Ma tu sei la mia terra. Il mio cuore è qui e io non andrò. Io lo so che sei figlia di una guerra, figlia di una guerra. Ma tu sei la mia terra.